later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli sono entrate le truppe del colonnello Mute, Kappa e Drago chiedono udienza all'amministratore delegato. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Amministratore delegato, non se ne vada, lei è sempre lì che sfugge, ci spieghi un po' come cosa sta succedendo. Qui si continua a sparare, siamo sì, praticamente in guerra, però non vedo resistenza, lei è qui tranquillo. Se la smetti di parlare contro chi sparano. Io non fumo perché come sono vanno contro le trattative? Le trattative, amministratore delegato. Sono contro il fumo. Sì. Non è vero, sta fumando. No, non sto fumando. Come non sta fumando? È una vostra sensazione. Tu da quando hai fatto il check-up vedi gente che fuma anche quando non c'è. Vabbè. Allora, se state zitti vi spiego cosa è successo. Gli incontri diplomatici, che si sono svolti a più alti livelli, hanno portato a una situazione ingarbugliatissima. Solo voi non ve ne siete accorti. No, appunto. Adesso ve la spiego. Mm. La produzione di polli, come si rappresenta? Si può rappresentare con un minimo X di polli macellati quotidianamente e un numero Y di polli che invece nascono quotidianamente. Chiaro? Sì. Capite? X, Y, polli che nascono, polli che vengono macellati, sì, polli in meno, polli in più. Sì, ok. Bene. Il mantenimento del pollo, dal momento della nascita a quello della macellazione, costa una cifra. Capite? Costa una cifra. Costi. Sulla destra i costi. Okay. Sulla sinistra i ricavi. Costa una cifra comunque. Costa una cifra. Costa un casino. No, hai capito? Questa cifra come la chiamiamo? Z? Allora, ripassiamo. X, Y, Z. Non è difficile, concentratevi. No. Sì, no. Se noi abbattiamo sensibilmente il costo Z, la redditività della fabbrica cresce di una percentuale K. Non fare lo spiritoso adesso. Sto parlando di cose serie, non sì, sto scherzando. Ma io non ho detto niente, però scusi, sta dicendo che se non si dà più da mangiare ai polli, la redditività della fabbrica cresce. Ma da dove vieni tu? Tu fai tutto così, sei troppo brutale. Non i polli denutriti che mercato hanno? No, non li mangia nessuno. Sei lontano dalla verità, amico mio. Chi ha parlato di polli denutriti? No, lei? No. Sì, vabbè, comunque lei non ha detto la frase polli denutriti. Provatelo. Detto che il costo Z bisogna abbatterlo e deve essere abbattuto sensibilmente. Il costo Z è quello del mantenimento. Provatemi che io ho detto una cosa del genere senza andare indietro con il nastro. Ma lei ha incontrato proprio personalmente il colonnello Unghiute? Certo. E com'è? Ma grosso, peloso, molto determinato, sì, molto aggressivo. Ma vuol dire, ma ride, scherza, com'è? Che tipo è? Manco parla, non parla. Ma come non parla? Come le fate? Fa dei gesti. Ci sono suoi servitori, che sono degli scimmioni come lui, vestiti anche loro in mimetica, ma senza i gradi di colonnello, però, ovviamente. Pura, E non fanno altro che eseguire quelli che loro interpretano come ordine, che gli dà Unghiute. Se lo scagnozzo interpreta bene il gesto di Unghiute, che ne so io, taglia la gola all'interlocutore di turno, per esempio, Unghiute gli fa sì con la testa, soddisfatto, accenna anche a un sorrisino, e poi lo scagnozzo, se invece interpreta male, fa qualcosa che non gli va, Unghiute gli spara. Devo dire la verità, se il mondo delle aziende fosse come il mondo di Unghiute, forse io personalmente lavorerei anche meglio. Ah beh, sì, certo. In che senso? Beh, volete mettere le mie responsabilità rispetto al potere di Unghiute? È un amministratore delegato. Cioè, lei vorrebbe avere il potere di dare gli ordini con lo sguardo e poi di annuire con piacere. Non è una cosa da amministratore delegato. Innanzitutto si risparmierebbe un sacco di tempo. Le cose sarebbero molto più veloci. E adesso, per favore, però, lasciatemi in pace perché devo andare dalla pedicura. Attività omicida coordinata, attività motoria incontrollata, da dalla coscienza, in sua presenza si manifesta durante il sonno. Ecco il killer sonnambulo, ti uccide senza dirtelo e forse non sapendolo, e non è condannabile perché è un killer labile, sonnambulo infallibile, lui entra nei tuoi sogni e tu non ci sei più. Niente. Niente da fare, ragazzi. Niente da fare cosa? Qui c'è confusione, amministratore. Io non... Il suo ufficio non si lavora più. Il vertice decisivo. Qui tutti gli appunti. Non c'è niente da fare, il vertice decisivo è stato rinviato. Perché? Perché il colonnello Unghiute aveva un appuntamento al quale non poteva assolutamente rinunciare. Come sarebbe? Con chi doveva vedersi? Con lo stregone. Lo stregone? Lo stregone, lo sciamano. L'altra notte ha digerito male e ha fatto dei brutti sogni. Quindi ha sospeso tutto, perché quando un Unghiute ha gli incubi si sospende tutto. E tutto passa nelle mani dello stregone. È un po' come i VIP con le maghe. Le nozioni di primo di classe. Le maghe dei VIP sono un chiaro esempio di plagio, non nel senso di copiare una canzone, ma nel caso di impadronirsi della personalità di un individuo, piegandolo alla propria volontà, che normalmente è una volontà di denaro. Nel caso delle maghe dei VIP succede che i ricchi pilastri dello spettacolo, del cinema, del mondo finanziario, avendo venduto l'anima al diavolo, devono trovare conforto e punti di riferimento in persone male intenzionate. È il caso della cantante soul Whitney Houston, schiava di uno spacciatore di crack, meglio conosciuto come Poppa. Eh sì, voi fate sarcasmo sul bisogno dei valori di noi, gente importante. Ma il problema è serio, no? Come le maghe, dai. Io sono fortunato perché ho trovato un guru nell'omino senza capelli. L'omino che mi ha sussurrato all'orecchio il segreto del New Age Management. Eh sì, è lui. Ma come posso biasimare tutti i cantanti, conduttori televisivi, direttori di TG e attrici che finiscono nelle sgrinfie di una maga? Biasimare. E soprattutto cosa sai devo fare con un Unghiute? Se vuole la consulenza dello stregone. Beh, una bella domanda. Mi sa che le conviene aspettare il verdetto dello stregone. No, perché lo hanno. Sono andati a prenderlo a Kinshasa, ci metteranno un pochino. Ma come? Ma non possono comunicare via internet? È semplicissimo, basta una cuffia, un microfono, volendo anche una webcam, così lo vedi, lo stregone. Ecco lo sciamano di un Unghiute. Ma è un gorilla. Vabbè, cosa ti aspettavi? Un figurino dai tratti angelici. È lo sciamano del colonnello Unghiute. In verità vi devo dire che mi ispira fiducia questo energumeno. Vabbè, voi amministratori delegati siete abituati a trattare con il meglio della società, quindi uno più uno meno cosa cambia? Anche questo scimmione qui che si agita. Vabbè, appunto, ma adesso fino a che non andranno a prenderlo a Kinshasa dobbiamo avere pazienza e sopportare gli ospiti armati. Ospiti armati li chiama. Vai giù! Ma non hai il caso, basta, giù! Basta essere new age. I proiettili non mi colpiranno. Rilassarsi, respirare a fondo, respira, apriti, sesamo. Che cosa succederà adesso? Riuscirà l'amministratore delegato a diventare immune ai colpi di artiglieria semplicemente concentrandosi? Apri la tua mente. E come finiranno le disperate trattative tra le maestranze della fabbrica di polli e lo sciamano del colonnello Unghiute? Non possiamo dirvelo fino alla prossima settimana, quando torneremo puntuali dal lunedì al venerdì a mezzanotte su Radio 3 con i prossimi diplomatici allestimenti de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli, un programma di Cappa e Drago, con Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Luca Gemma. La fabbrica di polli @rai.it, barlumen.com. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce. Barlumen.